giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Il 4 di agosto ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Parma, il 4 agosto 1989. La famiglia Carretta sta partendo in camper per le vacanze, tutti insieme. Alla guida c'è il padre, Giuseppe, lì accanto la madre, Marta. Dietro sono seduti i figli, Ferdinando e Nicola. Passa un mese, nessuno torna. I vicini pensano subito ad una fuga. La famiglia Carretta fa la bella vita ai Caraibi, dice la gente al bar. Si godono i soldi che Giuseppe ha preso all'azienda del settore vetrario Cerve, dove ha lavorato per oltre 30 anni. Passano altri due mesi e la scena si sposta e anche la città. Ora siamo a Milano, nel novembre dell'89. Il camper della famiglia Carretta viene ritrovato in un parcheggio di periferia e qualcuno ha un'intuizione. Un pubblico ministero ancora sconosciuto, Antonio Di Pietro, è certo. Non c'è alcun mistero, c'è solo un figlio che ha massacrato i genitori ed è scappato. Ma non ci sono altri indizi e sul giallo di Parma cala il silenzio per 9 anni. Londra, 22 novembre 1998. Un poliziotto ferma un Pony Express, lo multa per divieto di sosta. E Ferdinando Carretta ha i suoi documenti, non ha cambiato nome. Lui vive in un appartamento nella periferia della City, quasi in povertà. Gli inquirenti italiani, messi in guardia da un articolo della Gazzetta di Parma, lo interrogano. «Non so nulla dei miei», dice, «non li vedo da anni». Ma ormai i contorni della storia sono definiti. La pista del camper era quella giusta. Il pubblico ministero di Parma, Francesco Saverio Brancaccio, convince Ferdinando a rientrare in Italia. E come ogni giallo che si rispetti giunge il colpo di scena. Tutto avviene in pubblico. Il 30 novembre del 1998, davanti alle telecamere della trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto? Ferdinando confessa così il triplice omicidio. Il 4 di agosto ho preso quella pistola, quell'arma da fuoco e ho sparato ai miei genitori e a mio fratello. Questo è successo dove? Nell'appartamento di Via Rimini numero 8. Per quale ragione? Questo è stato un atto di follia, un atto di follia completa. Cioè avevano fatto qualcosa? No, nulla. C'era stata una lite? No. Non c'è una ragione? C'è una ragione ben precisa, che ha a che fare con me, con le mie condizioni mentali. Allora. A quel punto cosa è successo? A quel punto ho rimosso il camper dalla casa di Via Rimini numero 8, spostandolo in un posto non molto distante, appunto per dare l'impressione che il camper fossero partiti col camper. E poi... Tu sei tornato a casa? E poi sono tornato a casa, i corpi per quella notte sono rimasti nell'appartamento. Per quanto tempo sono rimasti? Ecco, adesso per quanto tempo esattamente non mi ricordo, per qualche giorno. Tu eri in casa? Sì, sono rimasto in casa, ovviamente sarò anche uscito, adesso non mi ricordo esattamente, però le mie condizioni mentali, ripeto, in quei giorni erano le condizioni mentali di un folle, di un pazzo. La ricostruzione del delitto, così immediato e diretto, sconvolge la tranquilla serata degli italiani davanti al mezzo televisivo. Ferdinando carica la Walter Calibro 6.35 mentre è in bagno. Poi esce e chiude le finestre. Il padre Giuseppe sale le scale e si toglie le scarpe. Nel ripostiglio Ferdinando lo colpisce più volte al petto, ma non è finita. Il turno della madre Marta, colpita al cuore. Ferdinando ricarica la pistola e attende così il fratello Nicola. Alla fine lo uccide. Di notte Ferdinando mette in ordine l'appartamento, getta la pistola in un canale, i corpi dei suoi familiari li seppellisce in una discarica. Loro non si troveranno mai più. Il caso Carretta è chiuso, La sentenza giunge il 15 novembre 1999. La Corte d'Assise di Parma assolve Ferdinando perché è incapace di intendere e di volere. Al verdetto si arriva sulla base della perizia psichiatrica di tre esperti. Sono Cesare Piccinini, incaricato dal Tribunale, Vittorino Andreoli e Giovan Battista Cassano. Per 5 anni Ferdinando viene rinchiuso nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Sabato 21 febbraio 2004 avviene la svolta. Il Tribunale di Sorveglianza gli concede la semilibertà dopo la richiesta dei suoi avvocati, Marco Moglia e Gianluca Paglia. La decisione renderà possibile uscite più frequenti dall'ospedale psichiatrico in cui si trova dal dicembre del 98. Ferdinando Antonio Carretta oggi ha 41 anni. Sul suo futuro è molto ottimista, davanti a sé vede un lavoro, una famiglia, dei figli, una vita normale. E nel frattempo frequenta un corso di informatica all'Istituto ENAIP di Mantova, 4 mattine alla settimana. I medici sono ottimisti sul suo recupero psichico e sulle possibilità di reinserimento. Ferdinando è stato curato ed è guarito, può condurre un'esistenza normale. Ne sono convinti i professori, ma sarà vero? Il professor Piccinini ha seguito le sue sorti in questi anni. Mi sembra quello che noi chiamiamo uno stato di assoluto compenso, nel senso che la sindrome di cui all'epoca, quando lo vidi io, soffriva Ferdinando, è una sindrome che può andare incontro a momenti di scompenso e momenti di compenso. La differenza è data dalla presenza o no di sintomi che possono essere caratterizzati appunto da manifestazioni di tipo delirante, o allucinatorie, che possono non essere presenti e che determinano, se sono controllate dai farmaci, dalla terapia in genere, una possibilità di una vita pressoché normale. Quindi diciamo esistono molte persone affette da questa sindrome che sono curate e che attualmente probabilmente girano tra noi tranquillamente in uno stato appunto di compenso, alcune sono inserite in attività e svolgono praticamente, possono svolgere una vita quasi normale. Ferdinando ha una forma, a mio avviso per sua fortuna, che non comporta un deterioramento cognitivo, quindi può, se compensato come attualmente sembra, svolgere una vita praticamente normale. Ecco. In fin dei conti la malattia psichica può, anche se ben curata, poi non avere bisogno anche di continui interventi farmacologici. Sono assolutamente ottimista. Ferdinando appare una persona serena. Giorgia Azzali, cronista della Gazzetta di Parma, lo ha incontrato in occasione della causa civile, intentata dalle zie Paola Carretta, sorella del padre, e Adriana Carla Ghezzi, sorelle della madre, per un'eredità stimata in circa 500.000 di euro. Ho trovato un Ferdinando che ha molta voglia di mettersi in gioco, che dice di essere pronto per ricominciare a vivere, per lavorare, per crearsi anche una famiglia, e parla addirittura di avere un figlio nel caso in cui dovesse trovare la persona giusta. Quindi, se non altro, ecco, a parole è molto motivato Ferdinando. Sicuramente rispetto a qualche anno fa, quando io lo incontrai, sia quando tornò a Parma nel 98 e quando fu arrestato, che negli anni successivi in ospedale psichiatrico giudiziario, è un uomo cambiato rispetto ad allora, insomma mi pare molto più tranquillo, riesce anche a sostenere un discorso, a dialogare, poi da qui a dare dei giudizi sul fatto che lui sia effettivamente pronta ad affrontare una vita, chiamiamola normale, ovviamente su questo dovranno pronunciarsi gli psichiatri e i medici. La mia impressione è stata questa, una persona diversa, nel senso che, ripeto, è una persona che mi è parsa molto più tranquilla, una persona che, se qualcuno ha presente per esempio la famosa confessione che lui fece alle telecamere di Chi l'ha visto, avrà ancora in mente questa sua mimica facciale esagerata che lo portava a tormentarsi le tempie, il mento, ad avere questi gesti così che potevano sembrare anche inquietanti, se vogliamo. Ecco, tutto questo in Ferdinando non c'è più. A A Parma per ora non torno, dice oggi Ferdinando Carretta. Immagina il suo futuro lontano da quella città. Ferdinando è pronto a rifarsi una vita. A vederlo oggi dedicarsi agli studi di informatica, alla falegnameria, alle lingue straniere, alla contabilità, non si direbbe un uomo tranquillo e sicuro di sé. Le tempie imbiancate, il volto più rotondo, gli conferiscono almeno sul piano estetico un aspetto rassicurante. Non vi è più traccia dei tic nervosi, dell'ossessione paranoica che gli italiani videro il 30 ottobre del 98 manifestarsi davanti al piccolo schermo. Il giorno che Ferdinando decise di vuotare il sacco e raccontare il triplice omicidio dei suoi cari. Una persona estremamente infelice, con tantissimi problemi, problemi che nascono molti anni prima, che si aggravano col passare del tempo e che si deteriorano in maniera veramente estrema in quegli anni, in quell'anno, nel 1999, in quell'estate. Io ero una persona a quel tempo infelicissima, quindi non avevo amici, non avevo, diciamo, non facevo una vita come altri facevano e che quindi completamente così al di fuori del mondo, di quello che succedeva, che vedevo le cose, diciamo, in maniera distorta. Alla fine purtroppo ha commesso un fatto così grave, insomma. Vi saluto qui Daniele Biacchessi, la collaborazione di Cristina Bassi dell'Istituto Formazione e Giornalismo di Milano, la regia tecnica di Michele Contessa.